24, i gialli della storia. Io sono sopravvissuta. I miei genitori saprebbero forse spiegare cosa ha significato. Io sono stata fortunata, mi dicono. Credo di esserlo stata. Ed è così che posso dire di avere una dipendenza. Una dipendenza al bisogno di aiuto. Perché dovresti fare appello alle certezze e alle sicurezze che ognuno ha dentro di sé, ma che io non ho più. Io vorrei poter voltare pagina e trovare la serenità e le certezze che avevo prima di rimanere sepolto in quel cumulo di macerie. Ma per questo ci vorrebbe anche che chi ha ideato e compiuto la strage si assuma le proprie responsabilità. Il 2 agosto dell'80 la stazione di Bologna, in una terribile esplosione, segna un nuovo capitolo del terrorismo stragista. 85 morti, 200 feriti, è questo il bilancio dell'attentato più tragico e sanguinoso della storia d'Italia. È l'unica strage di cui siano noti e condannati con sentenza definitiva gli esecutori immateriali Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini. Oggi a Mix24 parliamo proprio di questo avvenimento, degli interrogativi che ancora rimangono aperti e di quello che è davvero successo alle 10.25 di quel sabato d'agosto. In questo racconto ascolteremo le voci dei superstiti, dei parenti delle vittime e ancora il magistrato Riccardo Rossi e Francesco Cossiga. La bambina di 11 anni dell'80 era una bambina spensierata, molto allegra, a cui piaceva venire in Romagna a trovare i nonni. Mi è arrivata la lettera di mia cugina che si sposava a Roma. Io volevo partire il venerdì. Ho chiesto il permesso, la licenza, stando all'ufficio passaporto, non portavo la divisa. E allora avevo i capelli volubili. E il tenente mi disse: se non ti tagli i capelli non ti mando. E io ho fatto la battuta anch'io, ma non, vabbè, non vado. Però la mattina, il sabato mattina, l'altoparlante alle 8 la mattina mi chiama il tenente, braccia in ufficio, e sono andato in ufficio e mi ha firmato la licenza. Mi ha detto: però quando torni ti tagli i capelli, va bene, e sono partito. Ero proprio in mezzo alla sala d'attesa e per l'esattezza in quel momento stavo bevendo un tè freddo e mangiando un panino con la frittata. C'erano quelle porte a ventaglio e io mi sono appoggiato alla porta e da lì è scoppiato tutto. Stranissima, non, io gridavo aiuto, dico: cosa mi è successo, un incubo. A 11 anni non ci si può immaginare cosa è successo. Io ho cercato di aprire gli occhi, però non vedevo niente. Avevo la testa infilata sotto una sedia. Mi sono trovato sotto un treno con la testa appoggiata su un binario, il braccio piegato sotto, tutto. Non c'avevo niente addosso più, vestito di lino bianco c'avevo io, non mi sono trovato niente addosso. Oltre a vedere la madre di mia moglie uccisa, ho avuto mio figlio ferito, mia madre, anche lei e anche mio suocero. Io, mio figlio, quando lo sono andato a riconoscere dopo la strage, l'ho riconosciuto da una voglia che aveva qui sulla panca, una voglia di famiglia in pratica, no? Mi ricordo degli infermieri, dei dottori che mi accompagnavano verso la stanza, e uno dei ricordi che ho proprio come se fosse adesso, i miei amichetti, quelli con cui avevo giocato un paio d'ore prima, erano lì, avevano sentito la notizia e erano venuti lì, bambini di 13-14 anni erano venuti a vedere come stava. Presidente, non c'è da dare niente, non ci sono parole che possano esprimere lo stato d'animo mio, voi lo immaginate. Ho visto adesso dei bambini laggiù nella sala di rianimazione, ma due stanno morendo ormai, una bambina e un bambino, una cosa straziante. Uno scenario di guerra, un cumulo di macerie dove notte e giorno scaveranno vigili del fuoco, militari, forze dell'ordine e cittadini comuni. Da subito almeno sulle pagine dei giornali, la matrice dell'attentato. Appare una matrice chiara. Dietro alle stragi ci sono i fascisti, le nuove sigle dell'estremismo di destra, i NAR. Sono loro che hanno voluto colpire al cuore Bologna la Rossa. La magistratura inizia subito le indagini tra presunte rivendicazioni e telefonate di smentita come questa. Buongiorno dei nuclei armati rivoluzionari. Dovete pubblicarlo sull'edizione di domattina. I NAR smentiscono categoricamente ogni rivendicazione della strage di Bologna. Ciò vale una volta per tutte. Non è nella nostra tradizione di attacco militare compiere atti come quello del 2 agosto. La pista nera era la più semplice forse da seguire, la più plausibile. La magistratura indaga a tutto campo, ma la pista nera appare agli inquirenti l'ipotesi più verosimile, e questo anche per una inquietante coincidenza. Il deposito nella stessa mattinata del 2 agosto della ordinanza di rinvio a giudizio da parte del giudice istruttore di Bologna per gli autori della strage dell'Italicus del 1974. Martedì 5 agosto 1980. Al CESIS, il Comitato Esecutivo Servizi Informazione e Sicurezza, sono riuniti i più alti vertici delle istituzioni. Il presidente del Consiglio Cossiga si dice certo che la matrice della strage sia fascista. Pensai subito, come il capo della polizia, a un attentato dell'estrema destra, perché lo stragismo è stato una delle manifestazioni delle versioni di destra. Nel 1980 a dominare la scena del terrorismo nero sono i NAR, i nuclei armati rivoluzionari di Valerio Fioravanti e Francesca Mambro. E i NAR sono terroristi dalla impressionante capacità di fuoco. Da febbraio a giugno dell'80 i NAR hanno già ucciso 2 agenti di polizia e poi ancora il giudice Mario Amato, l'unico sostituto procuratore a Roma ad occuparsi delle versioni nera. Giovedì 28 agosto 1980 scatta il primo blitz contro la destra eversiva con 47 mandati di cattura. Il sostituto procuratore di Bologna, Luigi Persico, annuncia: abbiamo già in mente il nome dell'esecutore materiale dell'attentato. Martedì 23 settembre si replica, altri arresti e perquisizioni nei covi neri. Passano 2 settimane e sabato 4 ottobre 1980 a Roma vengono arrestati gli estremisti di destra Nanni De Angelis e Luigi Ciavardini. Quest'ultimo ha solo 17 anni e viene trasferito al carcere di Foggia. Padova, giovedì 5 febbraio 1981. Nella notte alcuni giovani dei NAR vengono sorpresi dai carabinieri mentre recuperano da un canale alcune armi. Nello scontro a fuoco violentissimo muoiono i carabinieri Enea Codotto e Luigi Maronese. Uno dei terroristi rimane ferito ad una gamba, sanguina, viene portato di corsa in un covo nel centro di Padova, ma ha bisogno di cure mediche e i suoi camerati non possono far altro che lasciarlo lì. Quando le forze dell'ordine fanno irruzione nell'appartamento, arrestano il capo dei NAR, Valerio Fioravanti. L'arresto di Fioravanti è un colpo durissimo per i NAR, ma intanto qualcuno nell'ombra sta già tramando per depistare le indagini. Bologna, 13 gennaio 1981. Sul treno Taranto-Milano la polizia ferroviaria rinviene una valigia contenente armi, esplosivo dello stesso tipo usato per la strage di Bologna, e poi 2 biglietti aerei e 2 passaporti stranieri intestati a un francese e a un tedesco. Pochi giorni dopo il rinvenimento della valigia, il SISMI produce una serie di informative che collegano quel materiale a una più ampia operazione denominata Terrore sui treni, una presunta campagna stragista realizzata da terroristi di destra italiani e stranieri. Ma l'operazione Terrore sui treni non esiste. In realtà quella valigia, quelle informative sono solo un depistaggio per sviare le indagini sulla strage del 2 agosto. Un depistaggio voluto e organizzato da alti vertici del SISMI. Ma perché i servizi segreti militari hanno inquinato e depistato le indagini sulla strage di Bologna? A cosa serviva davvero quel depistaggio? Intanto però le indagini sulla strage registrano una nuova, clamorosa novità. Roma, giovedì 9 aprile 1981. La polizia arresta un rapinatore legato alla banda della Magliana e agli ambienti della destra eversiva. Il suo nome, Massimo Sparti. Due giorni dopo il suo arresto, Massimo Sparti parla anche di un incontro con Valerio Fieravanti e la sua compagna Francesca Mambro. Un incontro, dice Sparti, avvenuto a Roma lunedì 4 agosto 1980, 48 ore dopo la strage di Bologna. Di quell'incontro Massimo Sparti riferisce soprattutto tre cose. Che Fioravanti avrebbe detto: hai visto che botto a Bologna? Che Fioravanti gli avrebbe chiesto dei documenti falsi per la Mambro perché aveva paura che qualcuno avesse potuto riconoscerla sul luogo della strage. Che Fioravanti gli avrebbe messo una gran fretta, minacciandolo se i documenti falsi non fossero stati pronti per l'indomani, martedì 5 agosto. Da quel momento le dichiarazioni di Massimo Sparti peseranno come un macigno. Fioravanti e la Mambro diventano i principali indiziati per la strage e a loro si aggiunge anni dopo anche Luigi Ciavardini. Nonostante i depistaggi, insomma, i giudici sembrano aver imboccato la strada giusta. Intanto però, mentre la magistratura fa il suo lavoro per le vittime, inizia un altro difficile, difficilissimo viaggio, quello di ricostruirsi una vita e provare a guardare avanti. Mamma non si è spostata da me per 2 mesi di seguito. È stata vicino a me e la devo ringraziare, ma tantissimo, tantissimo. Quello che ha fatto mamma per me non l'ha fatto nessuno. Mio figlio allora aveva 6 anni. Teniamo conto che i costi della strage ci sono ancora adesso, a parte le grosse menomazioni che ci sono dal punto di vista fisico da parte di tutti e tre i feriti, ma il costo psicologico, il costo anche solamente per dire, si guarda la televisione, si vede i disastri in Iraq o cose del genere, è un ricordarti, un rivenirti tutte le volte in mente quella situazione. Col racconto della strage di Bologna riprendiamo dopo la viabilità. Mix 24, i gialli della storia. Bentornati all'ascolto di Mix 24. Stiamo raccontando la strage di Bologna del 2 agosto dell'80 e una delle eredità più terribili di quella strage è la disperazione delle donne e degli uomini che non dimenticheranno mai quel giorno e il lacerante ricordo dei bambini a cui è stata strappata l'infanzia. Sono 200 feriti, convalescenti a vita. Intanto la magistratura cerca di dare una risposta a quella domanda di giustizia che il paese intero pretende. 3 gradi di giudizio, 15 processi, 21 anni di udienze, una trentina di imputati a vario titolo e 3 condannati con sentenza definitiva come esecutori materiali della strage di Bologna. È questo il bilancio giudiziario dell'eccidio più grave dell'Italia repubblicana. Assolti i presunti ispiratori della strage, assolti coloro che avrebbero fornito l'esplosivo e assolto perfino l'unico imputato di cui fosse certa la presenza alla stazione di Bologna il 2 agosto 1980, Sergio Picciafuoco. Condannati invece, come esecutori materiali, Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini. Per aver depistato le indagini, Licio Gelli, Francesco Pazienza e gli ufficiali piduisti del Sismi Giuseppe Belmonte e Pietro Musumeci. Per banda armata finalizzata alla realizzazione della strage, Fioravanti, Mambro, Ciavardini, Gilberto Cavallini ed Egidio Giuliani. La giustizia italiana non è riuscita a individuare mandanti e ispiratori politici della strage, ma ha individuato e condannato gli esecutori materiali. Una condanna molto discussa che tuttavia si basa su 4 indizi molto, molto precisi. Vediamoli uno per uno. La mancanza di un alibi, una telefonata di Luigi Ciavardini alla sua fidanzata, la testimonianza di Massimo Sparti, l'omicidio di Francesco Mangiameli. Dopo aver inizialmente sostenuto versioni contrastanti, Fioravanti, Mambro e Ciavardini affermano che il 2 agosto 1980 sono andati, insieme ad un altro loro camerata, Gilberto Cavallini, da Treviso, dove soggiornavano a casa dello stesso Cavallini, a Padova. Nessuno però li ha visti e nessuno, dunque, può confermare il loro alibi. 4 latitanti senza un alibi. Ma può la mancanza di un alibi diventare un indizio di colpevolezza? E soprattutto, è accertato che Fioravanti e Mambro e Ciavardini erano a casa di Gilberto Cavallini a Treviso. E allora, perché Cavallini non è mai stato imputato del reato di strage? Per il fine settimana del 2 e 3 agosto 1980, Luigi Ciavardini ha in programma di ritrovarsi a Venezia con la fidanzata e un'altra coppia di amici. Il 1 agosto 1980, tuttavia, secondo i giudici, Ciavardini telefona alla ragazza che si trova al mare vicino a Roma e la avverte di non partire più perché, spiega, ci sono dei grossi problemi. Questa telefonata, secondo la corte, è il preannuncio della strage. Una telefonata che ha portato alla condanna definitiva a 30 anni per Luigi Ciavardini, ma che tuttavia pone degli interrogativi. In varie azioni, lo dicono tutti i suoi camerati, Ciavardini si era rivelato superficiale, approssimativo, insomma un ragazzino immaturo e chiacchierone. E allora, se Ciavardini ha partecipato alla strage, perché Fioravanti e Mambro dopo il 2 agosto lo hanno lasciato in Veneto lontano dal loro controllo? Ciavardini non aveva un documento falso sicuro, e allora perché, se sono andati da Sparti, non gli hanno chiesto un documento falso anche per lui? Il 9 settembre 1980 Valerio e Cristiano Fioravanti, insieme a Francesca Mambro e ad altri esponenti dei NAR, uccidono Francesco Mangiameli, che fa capo a Terza Posizione, organizzazione dell'estrema destra rivale dei NAR. Dal 15 al 30 luglio dell'80, cioè fino a tre giorni prima della strage, Fioravanti e Mambro sono a Palermo, ospiti proprio di Mangiameli. Secondo i giudici di Bologna, allora... Vero è che le risultanze non consentivano di affermare che Fioravanti e Mambro avessero confidato a Mangiameli qual era il loro prossimo progetto da realizzare. Ma è altrettanto incontestabile che entrambi gli imputati si sono trattenuti in Sicilia, ospiti in casa di Mangiameli, sino alla fine del luglio 1980, e cioè proprio nel periodo nel quale non poteva che essere stata predisposta tutta la complessa attività preparatoria che quella strage doveva aver necessariamente richiesto. Mangiameli, insomma, non poteva non sapere della strage. Era un testimone pericoloso che avrebbe potuto parlare e perciò andava eliminato. Secondo i giudici di Roma, invece, che per questo omicidio, per l'omicidio Mangiameli, hanno condannato all'ergastolo Fioravanti e la Mambro, il movente era diverso. Il movente di questo delitto è solo un regolamento di conti interno all'estrema destra e non ha niente a che fare con la strage di Bologna. E del resto, perché eliminare un testimone che era anche un complice e che dunque non aveva nessun interesse a parlare? Quella frase di Fioravanti, hai visto che botto a Bologna, la sua ammissione di essere presente sul luogo della strage insieme alla Mambro, la sua preoccupazione di procurare alla ragazza in tutta fretta dei documenti falsi, sono, al vaglio della corte, un'affermazione inequivocabile, seppur riferita da altri, di responsabilità. Aggiunge la Corte di Cassazione. Soltanto il 5 agosto, cioè dopo aver ottenuto dallo Sparti i documenti richiesti, la Mambro si era presentata presso l'albergo Cicerone di Roma. Francesca Mambro non ha mai esibito nessun documento falso all'hotel Cicerone di Roma, dove alloggia insieme a Valerio Fioravanti la notte del 5 agosto dell'80. Ma c'è dell'altro. A mettere in dubbio la testimonianza di Massimo Sparti e, tra gli altri, suo figlio, il figlio Stefano. Si professava nazista più che fascista. Le dirò di più. Si vantava del fatto di avermi messo nome Stefano Sparti perché le iniziali, sembrerà una sciocchezza, sono SS. 1978. Alcuni giovani estremisti di destra, tra cui i fratelli Fioravanti e Alessandro Alibrandi, iniziano a frequentare a Roma la casa di Massimo Sparti. Si sentiva questa sorta di una sorta di pendere dalle labbra di Massimo, cioè di mio padre. Si vedeva che loro comunque lo guardavano con sguardo affascinato. Il padre di famiglia è un uomo violento. In casa l'atmosfera è tutt'altro che serena, soprattutto per la moglie di Sparti, Maria Teresa Venanzi. Una volta addirittura gli ha tirato un tavolo. A frequentare casa Sparti è soprattutto Cristiano Fioravanti, che presto diventa quasi un fratello maggiore del figlio di Sparti, Stefano. Il ricordo che ho di sabato 2 agosto 1980 è un ricordo ben chiaro, ben nitido. Secondo Stefano Sparti, il 2 agosto tutta la famiglia si trova nella piccola casa a cura di Vetralla, 70 km a nord di Roma. Gli Sparti si stanno preparando per le vacanze in montagna. Nell'abitazione di Roma, in via Vestri, è rimasta solo la domestica, Luciana Torchia. Proprio il 2 agosto, Cristiano Fioravanti, arrestato mesi prima per detenzione d'armi, viene scarcerato. Secondo Stefano Sparti, nel pomeriggio di quel giorno, a poche ore dalla strage, Cristiano giunge a cura di Vetralla per incontrare suo padre Massimo. Stefano Sparti non ha dubbi. Suo padre non si è mai spostato da Cura di Vetralla. Neanche il lunedì 4 agosto, la data cruciale del presunto incontro tra Massimo Sparti, Valerio Fioravanti e Francesca Mambro. Stefano Sparti non verrà mai sentito dai giudici di Bologna, ma durante i vari processi sia la moglie, Maria Teresa Venanzi, che la domestica, Luciana Torchia, che la suocera metteranno in dubbio le dichiarazioni di Massimo Sparti, sostenendo che egli è sempre rimasto a Cura di Vetralla. Le testimonianze della moglie, della suocera e della domestica di casa Sparti verranno tuttavia ritenute dai giudici inattendibili. La Corte di Assise di Appello di Bologna ha ritenuto di poter affermare che queste testimonianze, lungi dallo screditare le accuse dello Sparti, finivano anch'esse per rappresentare la riprova di come lo Sparti non avesse mentito. Con la storia della strage di Bologna del 1980 riprendiamo dopo la pubblicità. Amore. Amore. Amore. Amore. Amore. Amore. In quanti modi possiamo dire la stessa cosa? E cosa succede quando una parola assume un significato diverso da quello che volevamo? Dipende tutto dalla nostra voce. Voice Anatomy, un programma di Pino Insegno, io, in onda tutte le domeniche alle 14.30 qui su Radio 24. Ah, dimenticavo, lasciate un messaggio alla nostra voice box 828 12 12. Potreste scoprire di avere un futuro in uno dei nostri mondi. Ascoltaci anche in digital radio. Il segnale orario vi è offerto da Assicom. Vendi bene e incassa meglio. Marketing, informazioni commerciali e recupero crediti. Assicom.com. Mix 24. I gialli della storia. Siete all'ascolto di Mix 24, dove stiamo raccontando la strage di Bologna del 2 agosto dell'80. E della quale sono stati condannati in via definitiva Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini. Una delle tracce fondamentali dell'inchiesta è legata a Massimo Sparti, che avrebbe procurato dei documenti falsi per Francesca Mambro. Sparti viene arrestato, ma nella sua vicenda c'è un altro mistero legato a un suo presunto tumore in fase terminale. Febbraio 1982. Massimo Sparti è detenuto nel carcere di Orvieto e sta dimagrendo a vista d'occhio. Si teme per la sua salute. Si partiva la domenica mattina e si andava a trovare mio padre al supercarcere di Orvieto. Come seppi poi, lui insomma si stava facendo, cercava tutti i modi di uscire. Come mi disse, lo dico senza tema di smentita, lui aveva trovato il modo di farsi recapitare delle anfetamine, in questo modo dimagriva, non mangiava e simulava evidentemente qualche altra cosa. A causa del suo deperimento fisico, Massimo Sparti viene trasferito al centro clinico carcerario di Pisa. Qui gli viene diagnosticato un tumore al pancreas. Sapevamo che il tumore era inesistente, che non c'era, si era trovato un modo per farlo uscire. Eppure proprio grazie a quei referti medici, poche settimane dopo una diagnosi così terribile, viene scarcerato. Se il vecchio malavitoso si rimette in salute, il suo matrimonio è invece irrimediabilmente compromesso, e così il rapporto con il figlio. Dalla metà degli anni Ottanta in poi, Massimo e Stefano Sparti non si rivedranno più fino al febbraio 2002. Il padre, malato di tumore, stavolta vero, chiama il figlio al suo capezzale. Io ho rivisto mio padre, ovviamente in punto di morte, poco prima che lui morisse. Sembrerà assurdo, ma sono voluto andare a vedere, non per perdonare, non per vederlo morire, perché potrebbero sembrare le antitesi, ma per chiudere un cerchio. A un certo punto gli ho chiesto, ma tutto, c'era bisogno di tutto sto casino, cioè come, perché? E lui mi ha risposto con una frase sibillina, che ovviamente non vuol dire nulla, non potevo fare altrimenti. Massimo Sparti muore il 17 febbraio 2002. Viene seppellito in un cimitero di campagna a pochi chilometri da Roma. Sulla lapide, accanto al suo nome, un epitaffio. La commedia è finita. Gli applausi dureranno secoli e io li ascolterò dalla casa dell'Eterno. La vicenda Sparti è il nodo centrale del processo per la strage di Bologna, di una verità giudiziaria complessa e purtroppo basata solo su indizi. Noi per capire di più allora siamo andati da Paolo Giovagnoli, il magistrato che dal 1995 in poi si occupa della strage di Bologna. Perché i familiari di Massimo Sparti lo smentiscono? Gli ambienti della sua famiglia avevano tutti e due gli elementi che c'era lui, simpatia neofascista e paura di ritorsioni, quindi secondo me è per quel motivo che cercano di dire no, Sparti si è inventato tutto, visto che non sono riusciti a convincere Sparti a dirlo lui stesso o a non dire queste cose. Che interesse avrebbe oggi anche il figlio di Sparti Stefano a smentire il padre? Sono questioni di persone che sono vissute in questi racconti, che probabilmente non si ricordano dal vero quello che è successo, ma si ricordano quello che gli è stato sempre raccontato dai genitori. Quindi questa è evidentemente la versione della madre che poi è diventata la sua. Questa è una spiegazione, naturalmente vale quanto qualunque altra ipotesi. Insomma, per lei, dottor Giovagnoli, quella di Sparti rimane ancora oggi una testimonianza attendibile? Sì, non ho nessun motivo per dire il contrario, anzi mi sembra di sì, del tutto. Fin qui il caso Sparti, il caso di un testimone che i giudici ritengono attendibile e inattaccabile. Ma il processo non riguarda solo questi quattro indizi. Ci sono infatti anche le false informative del Sismi su una presunta pista straniera. Ma davvero quelle informative allontanavano le indagini dai NAR? Quali sono, insomma, gli elementi contenuti in quelle informative? Elemento numero 1. L'operazione Terrore sui treni parte da Taranto. Nell'estate 1980 Valerio Fioravanti e i NAR hanno un covo a Taranto. Elemento numero 2. I terroristi si spostano in camper. I NAR utilizzano per alcune azioni un camper. Elemento numero 3. I biglietti aerei rinvenuti nella valigia sarebbero stati acquistati da Giorgio Vale. Giorgio Vale nel gennaio dell'81 è un elemento di primissimo piano dei NAR, noto anche agli inquirenti. Elemento numero 4. I biglietti aerei rinvenuti nella valigia corrispondono a due voli, uno per Parigi e l'altro per Monaco, in partenza da Milano Linate. Su quei voli risultano prenotati anche i passeggeri Fioravanti e Bottacin. Bottacin è la falsa identità del terrorista dei NAR Gilberto Cavallini. E tuttavia, dopo 15 processi rimangono alcune domande a cui nessuna sentenza ha risposto. Che cosa significa esattamente esecutori materiali? Qual è stato cioè il ruolo preciso di Fioravanti, Mambro e Ciavardini a Bologna? Qual è stato il movente della strage? Chi ha fornito l'esplosivo? Chi sono i mandanti di quell'eccidio? Perché il Sismi, dopo aver depistato le indagini, ha di fatto abbandonato gli esecutori materiali al loro destino? Al di là di questi dubbi, qualcuno avanza delle altre ipotesi, a partire da un'altra tragedia di quella maledetta estate del 1980, la strage di Ustica. È il presidente del Consiglio dell'epoca, Francesco Cossiga. Credo che Bologna e Ustica siano due cose separate. Credo che non scopriremo mai la verità né sull'uno né sull'altro. Credo che la verità non sia stata scoperta. Un giudice esemplare come Priore l'ha confessato archiviando tutto, insomma, perché non ha scoperto chi era e come è avvenuto Ustica, e altri hanno dovuto tener conto della storia di Bologna partigiana, antifascista e comunista, e non si poteva che condannare due fascisti, insomma. Io credo che lì fosse in atto da parte di terroristi del Medio Oriente in atto un trasporto di esplosivo, che loro sono scesi dal treno e che gli sia scoppiato la valigia o le valigie con l'esplosivo che c'era dentro. Queste dunque le parole del presidente Cossiga, parole contro le quali si è espresso con durezza Paolo Bolognesi, che è il presidente dell'Associazione dei Familiari delle Vittime, sostenendo che quella dell'ex presidente della Repubblica è disinformazione. L'ipotesi prospettata da Cossiga, del resto, quella di uno scoppio accidentale, non ha mai trovato riscontri di nessun genere. Ciò nonostante, l'ipotesi di una responsabilità straniera nella strage torna anche nel lavoro svolto da due consulenti della commissione Mitrokhini, il magistrato Lorenzo Matassa e il giornalista Giampaolo Pellizzaro. Secondo loro, il neofascismo non ha niente a che fare con quella strage, il vero movente sarebbe invece da ricercare in un episodio accaduto nel novembre del 1979. Ortuna, provincia di Chieti, 8 novembre 1979. I carabinieri arrestano tre esponenti di Autonomia Operaia, Giorgio Baumgartner, Luciano Nieri e Daniele Pifano. Nel loro furgone i tre hanno due lanciamissili SAM-7 Strela di fabbricazione sovietica. A loro, una settimana dopo, si aggiunge un cittadino giordano residente a Bologna. Il suo nome è Abu Saleh Hanzeh. Un cittadino giordano di origini palestinesi, che era il responsabile del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina in Italia, che è una formazione che aderiva all'OLP, di matrice marxista-leninista, e che praticava il terrorismo su scala internazionale. Secondo gli inquirenti, il trasporto dei lanciamissili è stato organizzato proprio da Saleh, dirigente dell'organizzazione palestinese. Il processo per direttissima, il 25 gennaio 1980, condanna lui e gli altri imputati a 7 anni. Primavera 1980, il Fronte per la Liberazione della Palestina e il suo capo George Abbas, tramite il capo centro del Sismi di Beirut, Giovannone, lanciano accuse e minacce alle autorità italiane per la sentenza contro Saleh. Arrivò attraverso Giovannone un messaggio di un'organizzazione del capo di un'organizzazione terroristica, a me diretto, molto cortese, che diceva: ma qui stiamo violando i patti, il missile è mio, voi me lo dovete restituire. Compresi che quindi faceva parte del fatto, del patto, il fatto che non ci distraessimo dei trasporti di materiale esplosivo attraverso il nostro paese, purché al nostro paese non fossero destinati. Il presidente Cossiga fa riferimento a un patto, a un accordo segretissimo stipulato tra il governo di Aldo Moro e l'OLP di Arafat nel 1973, dopo l'assalto palestinese all'aeroporto di Fiumicino, che a quell'epoca provocò 32 morti. Una delle più ardite realizzazioni di Aldo Moro è stato l'accordo segreto, tanto segreto che io, che sono stato ministro dell'interno, presidente del Consiglio, presidente della Repubblica, non ho mai saputo niente. Sulla base di questo accordo, ai militanti palestinesi sarebbe stato consentito di far transitare all'interno dei confini del nostro paese armi e munizioni, purché queste non venissero utilizzate contro l'Italia. L'accordo avrebbe stabilito inoltre la non perseguibilità per gli esponenti palestinesi trovati in possesso di armi. A me, poi presidente, ministro dell'interno anche, e poi presidente del Consiglio e poi presidente della Repubblica, non hanno mai detto nulla. Però per un lungo periodo noi siamo stati al riparo dal terrorismo medio orientale. Secondo i consulenti della commissione Mitrokhin, Matassa e Pellizzaro, il movente della strage di Bologna sarebbe proprio questo: l'arresto di Abu Saleh e la rottura di quell'accordo tra l'Italia e l'OLP. Al centro di questa vendetta una figura che ancora oggi oscura, un militante delle cellule rivoluzionarie tedesche di nome Thomas Kram. Thomas Kram risulta in atti di polizia aver soggiornato a Bologna la notte tra il 1 e il 2 agosto 1980, ha preso alloggio, o così risulta almeno dal registro dell'albergo centrale che aveva e ha sede tutt'oggi a Bologna, in via della Zecca, con una annotazione a margine del registro in cui si dà atto che la registrazione è stata fatta poco dopo la mezzanotte. Ma chi è Thomas Kram? Secondo Matassa e Pellizzaro, nel 1980 Kram sarebbe un uomo al servizio del superterrorista Carlos, soprannominato lo Sciacallo. Il gruppo di Carlos è per l'appunto legato al Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina e quindi anche ad Abu Saleh. Eppure all'interno della Mitrokhin il lavoro di Matassa e Pellizzaro provoca una clamorosa spaccatura tra i commissari di centrodestra e quelli del centrosinistra. Si discute su tutto e tutto viene contestato, a cominciare dal ruolo di Cram e dei suoi presunti legami con Carlos. In carcere in Francia per altri episodi di terrorismo, il 1 marzo 2000 Carlos rilascia un'intervista al quotidiano romano Il Messaggero. Lo Sciacallo parla anche della strage di Bologna e accenna alla presenza in stazione di un compagno. 5 anni dopo, il 23 novembre 2005, questa volta al Corriere della Sera, Carlos si decide a fare il nome di questo generico compagno. Si tratta di Thomas Cram. Sempre in questa intervista, tuttavia, Carlos smentisce che Cram faccia parte della sua organizzazione e nega ogni coinvolgimento suo o del suo gruppo nella strage. Non risulta Cram essere mai stato nel gruppo dirigente del gruppo Carlos, mentre invece c'erano altri delle cellule rivoluzionarie che hanno fatto parte del gruppo dirigente di Carlos. Una serie di atti della polizia segreta ungherese documentano l'arrivo di Cram e un'altra terrorista tedesca a Budapest per un colloquio riservato con Carlos nell'ottobre del 1980. A questo proposito si parla anche che ci sarebbero state intercettazioni telefoniche che noi abbiamo richiesto all'autorità ungherese, ma che non ci sono mai state date. Sono state prese a Carlos molte agende, agendine, documenti. Non esiste mai un riferimento a un personaggio come Cram. Sarà frutto del caso, però noi dobbiamo fare i conti con i dati oggettivi, altrimenti siamo sul campo delle supposizioni. Thomas Cram è uno dei principali protagonisti della struttura Carlos, e questo è consegnato in atti. Chi afferma il contrario afferma il falso, punto. E allora Cram faceva parte o no del gruppo Carlos? Era davvero un esperto di esplosivi, come dice la polizia tedesca, oppure era solo un falsario, come dicono alcuni commissari della Mitrokhin? E perché la procura di Bologna, che sapeva della presenza di Cram a Bologna già 5 giorni dopo la strage, non ha seguito subito questa pista? E l'arresto di Saleh e la sua mancata scarcerazione davvero potrebbe essere un movente sufficiente per un eccidio come quello di Bologna? La sanzione è una sanzione praticata dal terrorismo internazionale, in special modo da questi gruppi, soprattutto dal gruppo Carlos, che adoperava l'attentato di Naomi Tardo sui treni e nelle stazioni come strumento per piegare la volontà dei governi. Quindi abbiamo un accordo, una violazione dell'accordo e una punizione, una sanzione che viene praticata con uno strumento devastante qual è quello dell'attentato. Che cosa avrebbe potuto significare per i palestinesi aver avuto un rapporto con la strage di Bologna? Noi saremmo stati, dal punto di vista politico, a mettere i palestinesi in una situazione in cui non avrebbero avuto più la possibilità di aprire bocca su nulla. Che interesse avevano ad una roba di questo tipo? Avevano interesse ad altre cose, mai ad atti di questo tipo, in ragione del fatto che cercavano un riconoscimento internazionale. Perché noi dobbiamo pensare che questo patto, conosciuto dai nostri governi, in qualche modo sia stato tradito? Per quale ragione? Per un Saleh qualsiasi. Interpretazioni, valutazioni, ipotesi diverse che nella commissione Mitrokhin hanno prodotto 2 documenti conclusivi ben distinti. Quanto alla nostra inchiesta, il riscontro sui documenti originali è stato impossibile, perché la Commissione ha secretato la maggior parte degli atti. Resta il fatto che presso il Tribunale di Bologna è aperto un fascicolo di indagine contro ignoti, un'inchiesta che tra l'altro cercherà di fare luce anche sulla figura di Thomas Cram, dal dicembre 2006 a disposizione della magistratura tedesca. Noi naturalmente faremo tutti gli accertamenti possibili. Ora Cram è ricomparso perché era rimasto latitante per molti anni. Abbiamo fatto una rogatoria in Germania per poterlo andare a interrogare. Cercheremo di capire se ci sono elementi ulteriori. È lecito affermare che quello di Bologna è un caso ancora aperto? Sì, è lecito affermarlo in questo senso, non nel senso che questo vuol dire che ci siano dei dubbi sulle responsabilità affermate, nel senso che ci sta sempre un'attività giudiziaria aperta o che può essere aperta in qualunque momento per accertare responsabilità ulteriori. Naturalmente voglio dire pure che se ci fossero elementi che potessero portare a una revisione delle condanne, anche quelli dovrebbero essere presi in considerazione e sicuramente nel passato lo sono stati. Il fatto di eliminare dei dubbi non è mai tempo perso. Crediamo che questo sia una cosa già trita e ritrita, ecco. Però, ripeto, non ha sentito un commento da parte nostra che dica nel momento in cui i giudici di Bologna hanno valutato di andare a fare una rogatoria in Germania per valutare la posizione di Kram, lei non ha sentito dire da noi fanno male, tempo perso, eccetera, anzi abbiamo detto bene, così chiudiamo anche questa partita. Ecco. Quella dei consulenti della Mitrokhin che vi abbiamo riferito per dovere di cronaca e completezza dell'informazione naturalmente è solo un'ipotesi che non è stata ancora mai vagliata dalla magistratura. Al momento l'unica verità di cui disponiamo sulla strage di Bologna è la sentenza definitiva di condanna contro Fioravanti, Mambro e Ciavardini. Eppure senza i mandanti, senza un vero movente, senza una risposta a tutti quegli interrogativi ancora aperti, questa resta in ogni caso una verità parziale. Quella della strage di Bologna, insomma, è un caso ancora aperto. Nel giugno 2008, a seguito di rogatoria internazionale, Thomas Kram è stato interrogato in Germania dal sostituto Paolo Giovagnoli della Procura di Bologna. Thomas Kram si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il lavoro dei magistrati continua. Diciamo che dal punto di vista psicologico, con il passare degli anni le cose sono peggiorate. Sono peggiorate perché uno si rende conto di quello che effettivamente è successo, dell'ingiustizia subita, il perché di questa cosa, dove tuttora non sappiamo il perché. Non ci penso quando sto con mio figlio, quando sto con mia moglie, scherziamo, giochiamo, stiamo insieme, però una volta che io esco, anche se esco da solo con la macchina, anche se sto solo in casa, che mia moglie va al lavoro, mio figlio dorme, io ci penso. Ci penso perché mi vedo. Chi ha fatto questo deve pagarne le conseguenze. Sono previsti quelle pene che deve fare, tutte, dalla prima all'ultima. E cercare comunque il mandante, anche perché mi piacerebbe sapere il motivo, il perché. A 13 anni mi sono ritrovato così. Io la mattina quando mi alzo sto a pezzi. Mi fanno male le spalle, mi fa male la testa, mi fa male il collo, l'articolazione, le gambe. Non è facile. Quando il bambino ti dice papà mi prendi in braccio, e tu non lo puoi prendere, lo sai dentro cosa ti viene. In sala d'attesa sono entrata la prima volta l'anno scorso, da sola, con il telefono dello psicologo. E per me è stato lì, un grande passo. La mia vita continua, non devo far sì che per colpa di alcune, chiamiamole persone, che a me non sono persone, non debba fare la mia vita. Proprio un paio di settimane fa ho portato per la prima volta mio figlio, che ha 5 anni e mezzo, in stazione a Bologna. Gli avevo già raccontato, cercato di spiegare perché la mamma è piena di cicatrici, perché la mamma ogni tanto gira con le stampelle, perché la mamma ha la valigetta piena di cerotti e di fasci, perché è sempre una ferita che si apre così. L'emozione di raccontargli la mia esperienza, contemporaneamente ho sorriso, perché mentre gli raccontavo questo lui mi fa: ma tu però sei andata solo in ospedale, a te non è successo niente, vero mamma? facciamo, non è successo niente. Io non credo più nelle istituzioni, da tanti anni, non ci credo più. Allora, io non sono sincero perché lo voglio dire, io non vado più a esprimere il mio voto per la destra, per la sinistra, perché non mi interessa più niente. Alla normalità proprio pura, come eri prima, non ci arrivi. Ti salta sempre comunque il ricordo, il... poi si va avanti, cioè, nel senso, si tira avanti per forza. Uscire alla vita, io ero nello ciclo, facevo già gare a livello agonistico, era la vita, cioè il mio futuro me l'ero immaginata, fare gare di sci, via sugli sci. A marzo del 2001, con parere contrario dei medici, io ho rimesso gli sci. E quando ho potuto mettere gli sci per me, gli ho detto, bene, se la faccio l'ho fatta.